Un solo cuore, Giuseppe Cruciani, quando interviene tu batti le mani, ma poi se ascolti David Parenzo ti sembra che abbia parlato uno stronzo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guarda avanti. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guarda avanti. Sì. Qui Bacca Monica, sì. Pieno di zingari, pieno zeppo di zingari, rubano a bracche, rubano. Sì. Io... sicuramente se mi rubano a me, io ne prendo di buttonetta nella pattumiera, non lo sporco. Devo dire del Kang. Sì. Perché non va a kangare nel suo paese d'origine invece di star qui a fare la cretina? Bondrini, Francesco, il primo Francesca. La lì, colorata e anche la radicale. Non chiamala, mi ricordo più. Grazie, non si chiama colorata, si chiama ministro Chienge, pronto? E lo stesso è il fatto di mettere su un ministro di colore come la Chienge. È lo stesso fenomeno che si ha nel calcio. Quando metti su un personaggio di colore è normale che le persone della sua nazionalità o delle sue avvicinante cerchino di esaltarsi. Sali Padania, fai sentire quanto è forte la tua voce, guida il popolo nella tempesta. Muore un sacco di gente a Lampedusa e c'è un deputato della Lega, Gianluca Pini, uno considerato anche moderato, che dice queste cose, se la prende con la Boldrini, presidente della Camera, e con la Chienge. Attenzione, perché io lo difenderò, ve lo dico subito, in parte lo difenderò. Abbiamo detto che la responsabilità morale di gente come la presidente Boldrini o la ministra Chienge, che danno segnali sbagliatissimi e pericolosissimi a queste persone, che si può arrivare in Italia senza il rispetto di nessun tipo di regola. Padania bella e libera, guarda avanti. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Borghezio. Padania bella e libera, guarda avanti. I messaggi demagogici di questi demagoghi di Stato suonano in questi paesi come un tam-tam, dice venite, siamo pronti ad accogliervi a braccia aperte. Quando basta entrare in un ufficio del lavoro in Italia per vedere che siamo il paese dei disoccupati, 40% di disoccupazione giovanile. Padania bella e libera, guarda avanti. Siamo qui, la Zanzara, 800 24 00 24. Caro Parenzo, fra poco parleremo di questa vicenda di Lampedusa. Però fermo, dove caro sei? Cruciani, dove sei? Mi dici già di stare zitto, ma questa volta non ce la farai, perché di fronte a 94 corpi recuperati, e tra questi due donne incinte e almeno tre bambini, sì. Quel coglione. Forse non si è sentito abbastanza, sì, che ha detto quelle cose poco fa in un'aula di Parlamento, sì, dimostra non era un'aula. La vergogna italiana, la vergogna italiana. E se tu lo difendi io chiudo qua la trasmissione. Figlia della libertà, servi di Roma fuori, senza dubbi neri pensamenti. No, ma io ti dico di più, ti dico di più, caro Parezzo, che non c'è nulla da aspetta, dire, perché... ti dico di più, ti dico di più. Io non è che difendo, secondo me non hanno nessuna responsabilità la Boldrini e la Chienghe. No, ma in un giorno come questo aspetta, non si può... stai tranquillo, a me non me ne frega niente, un altro giorno, eccetera. Non mi piace il buonismo di facciata, donne morti, il... ma che è una cosa, la contrizione è una tragedia epocale. Aspetta, stai tranquillo, stai tranquillo. Io dico solo e una cosa: come dei pesce cani divorano i corpi di queste persone già in fondo al mare. Questi qua sono dei pesce cani che stanno divorando ancora di più i corpi di questi morti per due voti politici in più. Caccia oltre il fiume il potere falso che ci spreme. No, ma ti dico una cosa in più io invece, ti dico una cosa in più. Piragna della politica. Aspetta, stai tranquillo, ti dico una piragna cosa. Piragna della e tu piragna della radio. No, ti dico una cosa in tra più. L'altro. Che te la dico forte, te la dico forte. Quelli che si sono imbarcati, ovviamente uno si aspetta, urlare, uno si dispiace. Io oggi urlo, non no, tu che devi urlare, oggi tu urlo. Devi urlare. Allora, uno che si imbarca, una persona che si imbarca. Stai tranquillo, una persona che si imbarca da un posto X, non mi interessa quale, non mi interessa un posto X su un barcone per andare ad attraversare lo stretto, il Mar Mediterraneo, in mano a quattro scagnozzi, eccetera. Amico mio, può accadere poi, può accadere, può succedere. Sì, si assume il rischio della morte. Si ma assume c'entra? Il rischio. Stai tranquillo, si assume il rischio della morte. Si assume il rischio della morte, è così. Ma che c'è? Guardavano. C'è anche la politica però, C'è anche la politica. Tirannia. Stai zitto, c'è anche la politica. Tirannia. Che mandiamo il giorno dopo? Non c'è più cazzo da mandare, la politica è tutto morto, è tutto finito. Vabbè, sì, c'è la Santa anche, mi auguro che si guardi nello specchio. Basta, ma non esiste più questa gente. Berlusconi è stato sconfitto, ha votato la fiducia, Letta al governo, il ministro Alfano è lì e chiusa quella vicenda. È da tirare. Fammi sentire Claire, ancora la Santa anche, ancora la Santa anche, dai. Cosa vuoi che dica in più la Santa anche? Contro i traditori, mi auguro ma che si guardi. Fai vedere quanto è bello che tutti gli altri lo possano dormire guardandosi allo specchio e non facendosi magari un po' senso. Ecco. Contro Formigoni, non saresti senatore senza Berlusconi. Che siccome tu hai ancora le cicatrici sulla tua pelle, di cosa vuole dire un accanimento giudiziario? E io tu ti sei trovato al tuo fianco sostenitore di Silvio Berlusconi e il Popolo della Libertà, perché oggi sei senatore della Repubblica, perché Berlusconi non si è comportato in questa maniera. Berlusconi Daniela, si è comportato, lasciami scusa, dire, finisco, in un'altra maniera. Lasciami dire maniera, che io ho l'orgoglio di poter dire per i tuoi nuovi compagni che al nostro di viaggio non saresti neanche ho sempre senatore. Portato carrettate di voti, me lo riconosci? Al nostro vai sentire quanto è forte la tua voce. Però la migliore definizione è quella di Sgarbi. Berlusconi è diventato il numero due di uno che non esiste, cioè Alfano. La madre e il figlio. Alfano non esiste. Il paradosso è questo, era, che Berlusconi con, reale, la sua, con la sua mossa è diventato il numero due di uno che non esiste. È un paradosso logico. Siamo qui 800 24 00 24. Caro Parezzo, ti ho portato un amico questa sera in apertura, ti ho portato un amico. Meno male, meno male. Un tuo carissimo amico, quello che nei giorni scorsi è andato in Parlamento con un finocchio, l'ha posato sul banco di un deputato di SEL, Zan, omosessuale. Lui ovviamente è il mitologico Gianluca Buonanno. Buonasera, ciao Gianluca. Ciao, ciao a tutti. Parenzo? No, io non lo non lo saluto, permettimi, non importa. Perché? Vai avanti. Perché? No, no, vai avanti, vai avanti. Perché? Io non lo saluto, perché non lo vuoi salutare? Vai avanti, ma devi essere cortese, sei un cafone, salutalo. Vai avanti, non pagarmi più, vado via, non lo saluto, non mi avrai, non lo saluto, vai avanti. Ma perché non vuoi salutare Buonanno? Non capisco perché non vuoi salutare. Vai avanti, e che non mi dicano dalla regia non urlare, perché se va via, guarda che aumenta l'ascolto della radio, Ma vieni tu poi con me, vieni tu con me. Sì, vengo io, guarda, lo sostituisco e secondo me facciamo il doppio degli ascolti. Facciamo il botto, dici, facciamo il botto. Sì, beh, quanto a stronzate che dici abitualmente, diciamo, nelle sedi istituzionali. E vedi che rimane lì? Saluta però, saluta le persone. Parenzo? No, fino a quando non può avere rispetto per i morti che ci sono stati oggi, non saluto nessuno io. Andiamo avanti. Ma se la sono voluta quelli che sono arrivati con i barconi, Gianluca? Beh, guarda, allora, da una parte... non fare il moderato. Do ragione a Parenzo, nel senso che non è che oggi sia una giornata ideale per parlare di tutte queste cose, però per non essere ipocrita, per non essere come altri che poi piangono da una parte e poi alla fine non fanno niente e poi si aspetta la prossima tragedia, credo che sia anche giusto analizzare la situazione. La situazione è questa, no, ma la domanda è questa, un po' quelli che partono, un po' se la cercano o no? Sanno i rischi a cui vanno incontro, sì o no? Diciamo che ovviamente sono, se lo fanno è perché sono dei disperati da una parte, però ovviamente sono coscienti di quello che stanno per fare. Quindi è evidente che secondo me la prima cosa che dovremmo domandarci è: ma i governi e gli stati da dove provengono? Hanno delle colpe pesantissime. Però non spostare la questione. Però Gianluca, bisogna fare un'analisi giusta. Il lutto nazionale è giusto oppure no? Oppure è esagerato il lutto nazionale? Ma una tragedia del genere può essere il lutto nazionale, ma non è il lutto nazionale perché siamo ancora ipocriti per l'ennesima volta. Il lutto nazionale può andare bene, ma non ti risolve il problema. Il problema è fare le cose che non si sono fatte e c'è gente che vive, tra virgolette, quello che credo il collega Pini volesse dire, è che c'è gente che vive, tra virgolette, su situazioni molto brutte perché vuole emergere in qualche maniera, ma poi di concreto che cosa fanno? Cioè, andare a parlare con i paesi per trovare degli accordi come aveva fatto Maroni? No. Allora, io voglio capire una cosa. Secondo la Repubblica oggi ha detto bisogna cercare di sorvegliare cose da dove partono. Benissimo, era la cosa che faceva già Maroni anni fa. Però lasciamo perdere i paragoni Maroni con questi qua eccetera. Io la cosa che ti voglio chiedere è molto precisa. Siccome è stato detto da un esponente della Lega che la colpa, la responsabilità morale di quello che accade è di chi li vuole accogliere a braccia aperte, ha fatto due nomi, il presidente della Camera e il ministro dell'integrazione. Sei d'accordo che la colpa è anche loro di questi morti? Beh, chi dice venite, chi nasce in Italia diventa italiano, c'è posto per tutti, siamo qua a disposizione, è logico che queste cose, se vengono dette tante volte da chi è responsabile istituzionale a grandi livelli, certamente secondo me non fa del bene. No, ma d'accordo, ma questi qua vengono qua perché sono attirati dalle parole della Boldrini o della Chienghe? Beh, non è che magari sentono direttamente la Presidente Boldrini o il Ministro, però è ovvio che se nel loro paese dicono guardate che chi oggi governa questo paese ha delle idee di questo tipo, invogliano certamente di più a venire nel nostro paese. Dunque, non è che dicono hanno una responsabilità nelle morti. Hanno una responsabilità politica di voler continuamente far vedere una cosa che non esiste. E dunque hanno una responsabilità. Di difficoltà in più, se ci fosse un governo serio. Vabbè, lasciamo perdere il governo. Non parlare di Barroso, bisogna sentire, dovevano andare in Europa a picchiare. Vabbè, i pugni. D'accordo. Ma tu spareresti contro i barconi? No. Adesso a sparare con i barconi assolutamente no. Ma fare quello che mi sembra giusto fare, cioè mettersi e andare da tutti quei paesi. Io sono stato a Lampedusa e ti dico una cosa, mi sono meravigliato di trovare nel centro di accoglienza a domanda, ma da dove provengono? Quelli che provengono di più erano nigeriani. Ma secondo voi Nigeria è un paese così aggiustato male? Le zanzare di casa mia. Ragazzi, però basta con questa ipocrisia. Io non posso sopportare le parole, per esempio, di chi dice solo vergogna, una tragedia, eccetera, eccetera. Perché poi alla fine, fra uno o due giorni, caro Parenzo, tutti se ne fotteranno e penseranno, vabbè, questi hanno fatto questo viaggio? Hanno voluto affrontare questo viaggio? Alcuni per disperazione, chiamiamola così, altri perché in cerca del Bengodi. Tutti sanno quello che succede, non è che non lo sanno, tutti sanno che questi possono affondare. Ma ci sono tanti ipocriti, lo sappiamo, no? Scusa, uno dice la verità o comunque dice le cose e passa ancora per cattivo, ma io penso che sia meglio non essere ipocrita. E allora la tua verità qual è? Che questi qua sanno benissimo a cosa vanno incontro. Sì, ma sono anche dei disperati dove noi diciamo bisogna aiutarli a casa loro, nel vero senso della parola. Sì, però scusami, buon anno, tu fino a poco tempo fa alcuni esponenti del tuo partito dicevano che questi qua arrivano con le scarpe da ginnastica griffate, che non sono proprio dei poveracci. Beh, adesso dipende da dove partono e chi parte. Beh, alcuni di questi... Cioè, quando partivano dalla Tunisia effettivamente era anche così. Cioè, tu stai dicendo che tra questi morti, non sono solo dei poveracci, probabilmente per una questione statistica. Cioè, guarda, io non voglio su questa cosa dei morti, non voglio fare polemica che non sono, non ho visto, e mi dispiace. Guarda, è una cosa brutta nel vero senso della parola, e non voglio fare della demagogia. Io non lo so come erano sistemati. Il tuo collega Pini ha detto che la responsabilità morale è della Boldrini e della Chieng. Il mio collega Pini, che è un bravo collega e che è una persona seria, secondo me ha voluto dire quello che nella realtà pensano in tanti. Cioè che la Boldrini e la Chieng... bisogna smetterla di fare i buonisti per un tornaconto politico, quando poi succedono le tragedie, piangono e però non risolvono niente. No, lui dice che c'è una responsabilità, cioè dicono delle cose che fanno arrivare le persone, sì o no? È quello che ho detto anch'io, ma se tu continui a dire che qui noi vogliamo fare in modo che chi però nasce in questo Italia, modo, scusami, Gianluca, in Italia diventa italiano, che qua però in questo modo assistenza a tutti, sì, però in questo modo è come dire che la Chieng è complice di un assassino, è un'assassina, hai capito? No, sì, no, io questo non lo dirò mai, però se non fosse ministro io sarei molto più contento. Perché? Questo lo voglio dire, perché fa dei ragionamenti, secondo me, assurdi rispetto a quello che è la realtà del paese. Cioè, provoca danni? Vabbè, fate un po' voi. Fate un po' voi con che? Con i morti? Cioè, è lei che provoca danni, vabbè, d'accordo. Anche secondo te è una responsabilità nei morti? Parenzo, vuoi rispondere? Fossi in lui, perché no, ma comunque bisogna ricordare ai radioascoltatori che la persona che sta parlando, l'onorevole Goodass Bonanno, è lo stesso che dice che il grana è il grana padano, perché c'è il padano, lo stesso. Lì, guarda, se parla, allora, con Parenzo, se non fa un discorso serio, vuole solo dire cazzate, allora fatevela voi la trasmissione. Qui, io sono venuto qua, Gianluca, lascialo parlare. Signore qua si dovrebbe rimboccare le maniche, prendere il primo aereo che trova, andare a Lampedusa e almeno aiutare quelli che sono lì, almeno. Quello è inutile. È la prima cosa che invece di stare moda, lì dai, a dire stupidaggini e a lasciare il fiato alla bocca, come abbiamo sentito a Radio Padania nella riproduzione della trasmissione. Non ho capito, la Boldrini va domani, ma è inutile anche secondo me. Secondo te che ci va a fare? Il ministro Chieng ha detto che va domenica, come se andasse al parco giochi. Io vado domenica. Come al parco giochi? No, il ministro ha detto. Sì, Chieng ha detto. Sì. Va domenica per portare letto il suo... dice, io andrò domenica e l'ha detto, cioè, con una frase così che sembra quasi che uno dice io vado al parco giochi, cioè. Io, se fosse stata lei ministro di questo importante settore, sarei partita immediatamente e sarei andata là. Domenica effettivamente si capisce bene che ce la fa. Appunto, cosa significa domenica? Oggi è giovedì. Io sono rimasto lì, ho letto un'agenzia oggi, non è che me la sono inventata. Parenzo, hai capito? No, ma ho capito che è una persona che è agghiacciante, ma va domenica, amico mio, niente peraltro. Ma delle responsabilità, oltre che è successo questo fatto gravissimo, oggi il presidente della Camera era in aula. È entrata in aula, ha letto 15 righe su un pezzo di carta, ha chiesto un minuto di silenzio, fine della trasmissione. Poi ha detto domani arriverà il ministro, successivamente il ministro degli interni, a relazionare, probabilmente. Questo ha detto. Vabbè, ma comunque secondo me nessuno le istituzioni non ci devono andare, c'è solo intralcio, voli di Stato, casini, alberghi, cioè che vanno a fare lì? Cosa vanno a fare a Lampedusa? Ci dovevano andare anche prima. Vabbè. Ciao Gianluca. Ciao. Comunque voglio dire ancora una cosa. Posso? Dimmi. No, volevo dire che ciò che ha detto l'amico Pini è comunque il pensiero di tantissime persone, perché molti pensano che la colpa morale sia della Chieng e di Boldrini. Vabbè. No. Spazio. radio sotto il salice, salice. Già ancora a casa, Simo. I senatori a vita vengono rincorsi da qualcuno e gli si chiede perché non venite mai al Senato, perché non state mai in Parlamento, nemmeno per il voto di ieri. Sentite Rubbia. Com'è che vi siete fatti vedere solo oggi? Non siete mai venuti a Roma, mai venuti al Senato? Un paio di volte. Sì, ma ci sono state 207 sedute, più oggi 208, lei è venuto solo oggi. Senta, lasci perdere, non ho risposte da fare. Quell'altra cosa. Mi lasci tranquillo per piacere. Solo una battuta. Siamo in un momento di grande crisi, no? Voi prenderete dai 9 ai 13 mila euro, mi hanno ribattezzato fantasmi per non essere neanche presenti. Possiamo stare dentro qui. Professore, in questo momento era necessario una spesa di quasi un milione di euro in più all'anno, perché questo costate voi. Questa è una domanda che non lo deve domandare a me. Ma perché è stato nominato senatore a vita e poi non viene in Senato? Ma lei non è vero che non viene. Guardi, abbiamo i numeri del Senato, lei non è mai venuto, è la prima volta. Adesso tieni gli occhi aperti e baciami, baciami. Senti la scia che piano si avvicina, avvicina. Questo è Rubbia, 207 sedute, è venuto 2-3 volte. David, amico mio. Vabbè, me ne fotto, almeno Rubbia è venuto 2-3 volte, ma quelle 2-3 volte che è venuto, essendo una persona intelligente, un Nobel. Ma se non sa manco dove muoversi lì al Senato, non sa manco qual è. Una persona ma che dai, ha dato qualcosa, ma dai, all'umanità, dai, almeno, ma, almeno. Sì, ma perché non doveva restare tranquillamente a indagare sulle stelle, sull'uranio, stelle, su quello stelle, che è. Rubbia. Ma no, ma dico così, sulle stelle, per dire sulla fisica. Una persona che tra l'altro è in cerca di cose. Buonasera. Che cosa stai facendo? Per mangiare. Le do io, aspetta. Ma che stai facendo? C'ha tre bambini lei. Le do io un po' di soldi. Ma sì, ma quello là. Ma chi è questo qua? Chi è? Venga. Ma cosa da dove viene fa? Lei? Ciao. Bulgaria. Dalla Bulgaria. Stia bene, arrivederci. Ciao. Dalla grazie, Bulgaria. Ciao. Tu dai soldi in giro alla gente così come se nulla fosse. Beh, distribuisce l'elemosina, distribuisce l'elemosina così. Roba incredibile. Brutto, okay. Mi hai fatto accapponare la pelle oggi. Comunque andiamo avanti. Per così poco. Andiamo avanti. Dai, su. Vediamo quale altra mostruosità. Ma risentiamola questa frase. Buonasera, grazie. Buonasera. Allora, Pini, il grande colpevole di oggi, Lega Nord. Colpa morale di Chienghe e Boldrini. Risentiamo la frase incriminata, Abbiamo detto che la responsabilità morale è di gente come la Presidente Boldrini o la Ministra Chienghe, che danno segnali sbagliatissimi e pericolosissimi a queste persone, che si può arrivare in Italia senza il rispetto di nessun tipo di regola. Allora, lasciamo perdere Boldrini e Chienghe. Il punto è questo: se le persone sanno, se gli scafisti sanno che in Italia alla fine si può provare, che ci si può provare, che alla fine ci si può riuscire anche a passare per l'Italia per arrivare in Europa, non c'è un pazzo da fare. Si proverà sempre ad arrivare in Italia. Il punto è sempre quello. Perché in Spagna? Perché in Spagna a un certo punto hanno messo le torrette coi mitra? Amico mio, perché? Perché evidentemente sanno e poi non. Diciamo, i flussi sono diminuiti. Perché? Perché secondo te? Perché? Per quale motivo? Per quale motivo? Perché sanno. Guarda che poi oggi ci sono. Dai, su. Al mare, ma non c'entra niente. Che al mare di Lampedusa. Ci non mi fare dire morti. Una frase, non me la fare dire quella frase. Fammi sentire e dire. Voi che siete in particolare. Ma che dobbiamo fare? Dobbiamo recitare il mea culpa? Dobbiamo stare in preghiera per un'ora e mezza? Non possiamo parlare? E dai, no, ma almeno titoli del TG3. No, ma non c'è buon gusto qui, non c'è buon gusto, lo sai benissimo. Non ti stupire. Non c'è buon gusto qui. Titoli. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Immane tragedia a Lampedusa, un barcone carico di migranti prende fuoco e si rovescia, 200 morti, molti bambini, 100 dispersi, 150 in salvo, il centinaio di vittime prigioniere nel relitto, il sindaco un orrore infinito, non sappiamo dove mettere i morti, si crea un corridoio umanitario. Il Papa, mi viene una sola parola, vergogna, Napolitano, una tragedia sconvolgente, stroncare il traffico di esseri umani, domani lutto nazionale. Alfano nell'isola, l'Europa si renda conto che non è solo un dramma italiano ma di tutto il continente, di fronte alla tragedia la politica si ferma. Il deputato leghista Pini, responsabilità morale di Boldrini e Chienghe, il ministro con loro punto di non ritorno, offese le vittime e la coscienza degli italiani. Letta prepara la legge di stabilità e convoca i sindacati per lunedì. Il PDL congela lo scontro interno, annullata la manifestazione di domani. Negli USA, terzo giorno di blocco delle attività federali per il mancato accordo sul bilancio. Rischiamo il primo default della nostra storia, ammonisce Obama. Marco se n'è andato e non ritorna più. Il treno delle 7:30 senza lui. Se n'è andato. Ora dico io, dirigenti responsabili, persone responsabili, amici, familiari, salvatelo, vi prego. Lo disse un suo caro amico di tanti anni fa. Non è possibile mandarlo in giro in queste condizioni. Non è possibile che un signore di oltre 80 anni, uno che ha fatto la storia della politica italiana, il referendum radicali, eccetera, eccetera, si presenti da solo, di notte, davanti alla Camera, tutto spiritato, a discutere, a parlare con quattro signori là davanti che lo attaccavano, lo disprezzavano. E poi risponde: ma salvatelo, vi prego. Ascolta, tu ascolta bene, perché non c'è solo quello che è stato pubblicato sui siti. Siamo andati a recuperare altro, amico mio. Senti, ma per gli esodati cosa state facendo? Chi state? Oh, a me pubblico. Sta attento, sì. Che no, sto cosa cazzo, tu cosa pagando? Stai facendo? Io cosa sto facendo? Cosa stai facendo? Io sono un esodato. Sei un esodato e cosa stai facendo? Perciò ti chiedo, continui scioperando, sì. Stai votando per loro e per noi, no. Non hai mai votato, io te lo dico no, io. No. Te lo dico io. Tuo padre, i suoi consigli che monotoni. No, perché? nel senso perché? Che tutti vi lagnate, no, io sto parlando e votate al 98, appunto, e io in caporale partiti, invece. I partiti, sciacquati tutti, la bocca. Tutti i partiti. Cioè, tutti, vaffanculo. Il partito radicale non è io tutti, sto i partiti. Dicendo, tutti, tutti i partiti. Tranne qui. Tutti. Cosa fate per gli esodati che stanno no, messi cosa hai fatto tu per come esodato? Di cosa hai fatto tu? Cosa io fai cosa ho tu fatto? Io ho manifestato da solo. Ci senza te studiare in un... Guardi, io le giuro che se nascono arriva di nuovo le BR, io sarò il primo a mettermi dentro, infatti, contro lo Stato. E infatti sei uno sì, stronzo. Sì, contro lo Stato, perché voi state solamente rubando voi le chi? Persone. Guarda, dico, io non sono nemmeno deputato, non alzo nulla, ma dico, non offendere. Tu sei sicuramente un ladro come loro. Tu sei sicuramente un ladro come loro. Ma c'è Berlusconi che parla, sentiamo, dopo l'incontro con Alfano. Le sezioni 2 e 3, che erano quelle che rappresentavano il mio giudice naturale, avevano per gli stessi motivi che sono stati fatti diventare opposti da questa corte feriale, mi aveva assolutamente assolto. Cioè, se volete ve li dico anche, perché ormai sono cose note. Adesso di terzo grado, la giunta anche cosa potrebbe fare? Qualsiasi paese qualsiasi democrazia matura, abbiamo due strumenti che perseguiremo, la revisione del processo, che è così fondamentalmente sbagliato, per cui io sono assolutamente sicuro che otterrò sia la revisione del processo che l'annullamento di questa sentenza da parte della Corte europea. Voi pensate che... Ma assolutamente. Berlusconi è davanti alla Camera, credo, dopo l'incontro con Alfano. Voglio entrare anche in un particolare, per chi... O Palazzo Grazioli, che ne so. Potrebbe essere interessato. La sezione seconda della Cassazione Penale nel 2012, il 6 di marzo del 2013, che fa? La sezione terza, sì? Hanno fondato la soluzione che mi hanno dato. Sta parlando di cose giuridiche, registriamo, dopo casomai mandiamo in onda, sta parlando di tutti i ricorsi, la Corte di Strasburgo, i precedenti verdetti, eccetera. Ma e quale con... corte? Vabbè, ho capito, ognuno ha il diritto di ricorrere dove vuole o no. Ho capito, ma quale? Ho capito, Parenzo. Guarda la differenza, hai fatto sentire prima un vecchio leone della politica che andava lì a metterci la faccia, a dialogare con i cittadini. È un altro asseragliato, ma sono palazzo, due, ma sono tutte e due, ma sono, nessuno, ma vuole sono alzare, tutti e due, tutte e due, due sono nella disperazione tutte e due, dai. È con noi Andrea Vecchio, buonasera. Buonasera. È il deputato più vecchio della Camera dei Deputati, nome omen, più anziano. scelta civica. Oggi dice la Lega va messa fuori legge. Civica, scelta civica. Scelta civica, sì, scelta civica, quella di Monti, scelta, te la ricordi? Sì, alcuni la chiamano sciolta civica. Ma lei è d'accordo, sì, scusi? Esatto. Beh, io non lo so. Beh, insomma, però sono poco pratico, poco esperto. Scusi, signor Vecchio. Io capisco un poco di educazione. Di educazione, ecco, sì. Perché ho detto che la Lega deve essere messa fuori dal Parlamento. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte. Sei una zanzara. Su di me, ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Allora, siamo con Andrea Vecchio, scelta civica, il deputato più vecchio, più anziano del Parlamento dal punto di vista dell'età. Quanti anni ha lei, signor Vecchio? Vecchio, che sta fa? Vecchio? Vecchio! Ma che ne so, è invecchiato improvvisamente? Ancora di più, no? Ha messo 10 anni di più all'improvviso, che ha fatto? C'è o non c'è sto vecchio? Quello che vuole mettere fuori. Dice che vuole mettere fuori. Vuole mettere fuori legge la Lega. Cioè, è di una totale mancanza di rispetto, ma dire c'è sto vecchio. Come no, sta, ma Paola? Sto vecchio, no, vecchio come età, sto vecchio come di cognome. Non arriva il tasto? Adesso glielo chiamiamo. Ma chi è? Ma oggi sei diventato improvvisamente buono, che stai facendo? No, è la signora. Sono in diretta alla radio, posso dire il suo nome? Sì, no. È la signora Paola. Sì. Detta anche zia Paoletta. Vabbè, che cazzo vuole sta Paola? Come dire? È arrivato il suo taxi, signora. Ma chi se ne frega? Oggi sei, perché c'è stata, grazie, la tragedia della Lampedusa, sei diventato buono all'improvviso. Ma c'è, grazie, sto vecchio, grazie, o no? Vabbè, Roberto D'Ancona, dai, così non ci rompo. Sesto vecchio. Dai, vecchio come cognome. Roberto, pronto? Allora, dica. Ma che modo di fare? Pronto? Sì, dica. Luciani. Sì. Ma mi spiega una cosa. Come si fa a dire, sì, che se gli immigrati montano sui barconi in Africa, sì, per venire in Italia, sì, mettono in conto il rischio di morire? Eh certo, ma è normale. Ma qual è? Mi non capisco qual è. No, no, è una, no, tale, no, ovvietà. No, è una, guardi, tale, guardi, ovvietà. È una, guardi, tale ovvietà. È esattamente quello che le, diciamo, indegnamente le rimprovero. Ma come si fa di una cazzata del genere? È talmente ovvio. La ripeto, sarà pure una cazzata, ma la ripeto, quando uno si imbarca su una, su una roba, una roba che stai zitto, stai zitto un attimo, se uno scappa e si mette su un barcone, si mette su un barcone che non c'è posto manco per un grissino, è evidente a tutti che si va incontro al disastro. Questo non significa che uno non deve essere dispiaciuto, non c'entra niente, ma è evidente, è chiaro. Uno mette in conto che può crepare, mette in conto che può finire sotto al mare. Sì, dico, ma con questa sua dichiarazione. Ma non è una dichiarazione, conseguenza... mica faccio il politico io. Che dichiarazione? È un... Se l'ha detto è una dichiarazione. Una dichiarazione, se no, che cazzo, sì, fa? Parla così a vanvera. No, ma le dico di più, fame, le dico di più, ma che fame, le dico di più, le dico di più, ma le dico un'altra cosa, le dico un'altra cosa. No, ma gliela dico un attimo solo. Parenzo, dove sei? Mamma mia, che dove figa. Sei? Non ho capito. Ma come, dove sono? Sto andando, cioè, a casa. Finché, Roberto, le dico, finché è radicata la convinzione che da noi si può fare tutto e ma alla chi fine cazzo l'ha detto? Ma chi, ma cazzo, è così, l'ha detto? È così, ma è così. Tutini che diceva prima che rimproverà la Chiang per, ma aver, ma quella detto è un'altra cosa, io... quella è un'altra, chi cosa. Chi cazzo l'ha detto che da noi si può fare tutto? Ma chi l'ha detto? Ma dove sta scritto? In quale legge? In quale normativa? La, ma quella è un'altra cosa. Ci saranno sempre la gente che migra quando ha fame, cioè, non la fermerai tu, non la fermerà Bonetti, non la fermerà Pini, la gente che ha fame scatterà. Ma non è solo la fame, spesso è gente organizzata con i telefonini da una parte all'altra. Guardi, Cruciani, dai, che cazzo di gente organizzata? Io lavoro con io lavoro in Africa 6 mesi all'anno, gente organizzata. Ma che c'entra che lei lavora in Africa? Dove lavorerà? Nei grandi alberghi, lavorerà nelle grandi città, ma che ne sa lei di migrazione? Cazzo dice, ma non di cazzate. Dai, su, ma scusi, con gente che viene dall'Eritrea o dalla Somalia e lavora nelle grandi organizzazioni. Senta, non bisogna farli arrivare, per non farli annegare, non bisogna farli arrivare. Il modo c'è, perché non è che arrivano dappertutto. In Italia arrivano perché sanno che se la possono cavare, cioè che non sanno loro. Non sanno loro, sanno gli scafisti, sanno gli scafisti che qui alla fine ce la possono fare, se arrivano qui poi ce la possono fare, ha capito? Gli scafisti ce la fanno perché nessuno controlla gli scafisti, invece ci accaniamo con gli immigrati. Ma nessuno si accanisce, ma chi si accanisce? Nessuno rompe il cazzo agli scafisti, li rompiamo agli immigrati, ai disperati. Va bene, Marco da Verona, grazie. Marco da Verona. Sì, Cruciani, buonasera. Io volevo solo obiettare al fatto che Parenzo chiama gli immigrati che arrivano li chiama disperati. Questa non è gente disperata, questa è gente che paga 1.500-2.000 dollari per venire fino qua. Gente che con 1.500-2.000 dollari potrebbe andare ovunque, prendere un aereo, atterrare ovunque in tutto il mondo. Invece decidono di prendere queste barche, pagano questa cifra e lo fanno semplicemente perché non hanno il passaporto, quindi una piccola percentuale di questi non ha il passaporto, probabilmente perché effettivamente sono magari perseguitati politici, hanno quindi diritto all'asilo, ma la maggior parte lo fa semplicemente perché sono delinquenti, gli hanno tolto il passaporto, punto. E questo è il motivo per cui arrivano, è inutile chiamarli disperati. Cioè, secondo lei non sono disperati? Uno che paga 1.500 dollari e che ha 1.500 o 2.000 dollari, che li ha, secondo lei è un disperato in Africa? No, no, certo, magari, come dire, spende tutti i soldi che ha ricavato da una vita, che ne so. E perché non prende l'aereo? E perché non con 700 dollari, con 600 dollari si va ovunque in tutto il mondo, Cina compresa? Sono migranti. Ma che sono c'entra migranti, questa parola generale, migranti, dai, su. Con 1.500 Andrea da Brescia, Andrea da Brescia. Allora, velocissimo, premesso che questa è stata una grande tragedia e premesso che questi della Lega sono degli sciacalli che dovrebbero fare la stessa fine, annegare e crepare tutti. Tutto ciò premesso, io 3 mesi fa, fossi stato il governo italiano, avrei detto a tutte le cancellerie, alla Comunità Europea, all'ONU, e avrei fatto valere questo messaggio SMS: carissimi, non siamo più in grado di ricevere, noi dal 1 settembre cominciamo a sparare alle navi che arrivano. Tutto qui. Poi vado a dire, cioè, lei vuole sparare alle navi che arrivano, l'annuncio deve essere La terza strofa di "Mamma mia, dammi 100 lire che in America voglio andare", diceva: quando furono in mezzo al mare, bastimento si sprofondò. Tutto qui. Buongiorno. Scusi, mamma, Andrea, lei dice per impedire a questi di arrivare, se uno dicesse vabbè, da domani in poi sparo, giusto, vabbè, è andato via. Pasquale da Milano. Buonasera a lei. Dica. Velocemente, no? La sicurezza. Noi abbiamo avuto la Concordia che ha avuto 35 morti. Sì, ma che c'entra la Concordia? Stata, mi fa finire la frontata di questo. Con due polore non posso finire un concetto. All'Inate c'è stato l'anno dopo le torri gemelle, c'è stato un centinaio di morti. La sicurezza non esiste neanche con i mezzi di trasporto molto idonei, no? E di conseguenza non è da meravigliarsi che una barca possa creare molto più danni di quanti possono. Vabbè, allora dai, su. Degli aerei, no? Per cui io difendo coloro i quali cercano una vita migliore. Vabbè, d'accordo. E di conseguenza, cioè, ragazzi, non ci possiamo illudere, ci sarà sempre una differenza di reddito pazzesca tra alcuni stati e altri stati, la gente che cerca di venire qui. Per cui, ma come che c'entra? C'entra, bisogna impedire alle barche di partire, questo è il punto. Bisogna impedire alle barche di partire. Bisogna che sia chiaro a tutti che se uno si avvicina, è arrivato il ministro degli interni. Vabbè. Gli uomini sessuali sono gente tali e quali come noi, noi normali, sanno piangere, sanno ridere, sanno battere le mani, proprio come noi persone sani. La concia fa la pace con Barilla. Gli uomini sessuali non ci avranno gli assorbenti, ma però Vendola ha già perdonato. Vladimir Lussuria ha già perdonato, adesso tocca pure a me. Adesso un piatto di fusilli rigorosamente. Barilla, se qualcuno mi riprende con questo cellulare, dottore, riprende, che io voglio anch'io partecipare. Primo perché c'è una fame che sto a morire. Perché io col cucchiaio? Sigliamo la pace, eh? Un etero e un gay, perché. Ma che gli mangiano tutti te? Attenzione, è Barilla. Sognare però, sognare. Vai, fammi la musica della Barilla. Ma guarda. Perché ricordi? Ok, ecco. Siglando la pace. Gli uomini sessuali sono gente tali e quali come noi, noi normali, sanno piangere. Diamo l'ergastolo agli scafisti, l'ergastolo. Proprio come basta noi, parole, basta sani, basta ipocrisia. Gli uomini sessuali. Basta paroloni il giorno dopo le tragedie, basta viaggi di politici, ministri e istituzioni a Lampedusa che non contano un cazzo, fanno solo confusione, basta. A che serve andare lì? A nulla. Beh, no, nulla, nulla, non andasse nessuno, a che serve? A niente. Ci sono alcuni casi in cui la presenza dello Stato. La presenza dello Stato dove? Ma quelli, allora, quelli sono morti. Quelli sono morti. Ci sono quelli dentro i centri d'accoglienza, ma che vanno a fare, scusa? Cosa vanno a fare? È arrivato il semplificatore. Cretino, insensibile. E se ridu così. Silvano da Vicenza, buonasera. Sì, buonasera. Senta, io sono pienamente d'accordo con lei a proposito degli ipocriti della sinistra. Ma io non ho detto di sinistra, io non ho detto di sinistra. No, di quelli che stanno in Parlamento, i politici che fanno il cancan sull'immigrazione, no, su questi poveri immigrati. Se vogliono che i poveri immigrati vengano in Italia senza rischiare la vita, non fanno altro che devolvere il 100% dei loro stipendi, no, per pagare il viaggio all'Italia in prima classe, così vengono qua senza rischiare la vita. Beh, potrebbe. Forse lei è d'accordo con me. No, non lo so, adesso questo qua è una provocazione, francamente. Loro paghino, quelli di sinistra paghino gli stipendi a questi qua per non fargli rischiare la vita in acqua, in mare. Questo è. Parenzo, rispondi tu, va. No, dai, la provocazione idiota delle 19:45, benissimo. Insomma, io vorrei capire tu che cosa faresti, perché non tu ti emozioni, dici una tragedia immane, una tragedia pazzesca. Ma una... io dico anzitutto ergastro per gli scafisti. Ah, va bene, allora secondo, sì. Valla a proporre, va, guarda come ti aggrediscono alcuni quando dici ergastro per gli scafisti. Secondo, pattugliare il mare, sì, pattugliare il mare. Terzo, la gravità di quella vicenda è che c'erano delle barche nelle vicinanze e nessuno ha osato aiutare questo barcone che stava inabissandosi nel mare. Quarto, i piragna della politica, piragna, sì. Perché ci sono dei piragna in politica, sì. Che non sono semplicemente adesso te ne presento uno, quello che tu chiami piragna, quello che tu chiami piragna. Corpi in fondo al mare, ma mangiano politicamente quei corpi. Ma perché uno non può fare una polemica col presidente della Camera e il ministro degli Interni? Non può fare una polemica, no. No, per le idee che hanno sull'immigrazione non può fare una polemica, no. È proibito, fare una polemica. È proibito fare una polemica perché alcune hanno idee sull'immigrazione troppo aperte, eccetera. Non si possono fare polemiche. Si chiama buon gusto a casa mia. Ma che c'entra? Qui non c'è buon gusto e comunque in politica esiste anche il cattivo gusto. Esiste anche la provocazione, esiste anche l'invettiva, hai capito o no? Oh, protagonista del giorno, attaccato da tutti, martellato, crocifisso, Gianluca Pini, buonasera. Ciao Giuseppe. Ciao Gianluca. Che c'è? Parenzo, avanti, dilla subito, sputa subito, avanti, dilla subito. Almeno un piragna. Perché no, un piragna? Sono pesci di segno zodiacale, ma non ho identità da piragna. Un piragna. Ti spiego il perché, se però lasci parlare e non interrompi come sempre le persone. No, io non interrompo nessuno, è un piragna. Ma perché, perché è un piragna? Spiegami, perché ha osato citare la Boldrini dicendo che è il mandante morale, la Chieng, sono io. Piragna che nel giorno come mandante, no, scusa, mandante no. Però responsabile morale, ha detto. Ci sono corpi in fondo al mare, sì. E i piragna della politica, e uno è lì, l'hai messo lì, un piragna, allora, i microfoni. Dimmi, Gianluca, rispondi a Parenzo. No, Parenzo in parte ha ragione, cioè adesso piragna mi sembra eccessivo, però il problema è che io ho voluto fare, non una provocazione, però ho voluto capire se purtroppo, come pensavo, in questo paese l'indignazione è a senso unico o se invece l'ipocrisia pian piano magari riesce a scendere, si riesce a trattare i temi anche più tragici come quello che è avvenuto oggi, sì. Senza il livello di ipocrisia, e magari si va avanti, si cerca di trovare qualche perché soluzione. Hai messo in mezzo il presidente della Camera e il ministro dell'integrazione? Allora, per un semplice a parte che sono le due persone, fra tutto comunque nel panorama di sinistra, che continuano insistentemente a mandare segnali pericolosissimi a queste persone. E come tu hai detto prima, se si continua a far credere che ci sarà lo Ius Soli, che chiunque viene in Italia a partorire figlio diventi italiano, senza aver minimamente messo avanti almeno una proposta di legge o ci siano, è chiaro che poi qualcuno magari pensa, utilizzando strade che non sono assolutamente quelle ordinarie, di cercare di arrivare in Italia anche rischiando la vita. Però il problema, fammi finire, sì. Però il problema qual è? Che perché io, che critico penso legittimamente, faccio politica, mi è concesso di criticare, io non ho mica detto che gli hanno sparato, che cosa ho detto, che secondo me... Beh, quando uno dice mandante morale, quando ho mandato... Finisco, poi capisci il perché della mia dichiarazione, che ho reso anche in aula. Nel momento in cui si mandano questi segnali, ripeto, si invita in qualche modo la gente a fregarsene altamente di quelle che sono le norme legate all'immigrazione e a venire a prescindere in Italia. Però perché io che critico la Boldrini e la King per questo atteggiamento politico e morale devo essere messo in croce, e chi dice ancora prima di me, ancora non si sapeva quanti morti c'erano, la colpa è della Bossi Fini, cioè di due persone. Vabbè, che hanno fatto... Ma quella infatti è una stupidaggine. No, allora se è una stupidaggine quella, sarà una stupidaggine anche la mia, però lo si dica che è una stupidaggine. Vabbè, anche d'accordo, quella. Però adesso non puoi dire, siccome è una stupidaggine dire quello, no, allora io sono autorizzato a dire un'altra cosa. No, non ho detto questo. Se si vuole fare della polemica, facciamo una 360 gradi, perché io non ritengo di non aver fatto nessun tipo di sciacallaggio. Mentre qualcuno, per cercare di modificare una legge, ha subito usato quei morti. No, questo è il dato di fatto. Cioè, sì, perché molto prima che io uscissi facessi quelle dichiarazioni... Chi sono i veri sciacalli allora? Chi sono secondo te i veri sciacalli? Tutti quelli che si sono alzati subito a dire questa tragedia, se si cambiava la Bossi Fini, non sarebbe successa. Non è vero un tubo. Ma davvero tu credi? Parenzo, quello che diceva prima. Tu lo sottoscriveresti? Ha ragione su tre punti. Sì. No, ha ragione su tre punti. Attenzione, perché lui diceva, cosa serve? Serve l'ergastolo agli scafisti, c'è già, Parenzo studia, serve bloccare questi qui alla fonte, l'avevamo fatto noi e qualcuno poi ci ha rimangiato quel tipo di accordi, perché quando, vatti a vedere i numeri, quando Maroni aveva fatto gli accordi con quei paesi, gli sbarchi erano calati del 90%. Fatti fare una domanda. Allora, la questione è molto semplice. Tu davvero credi? Aspetta un attimo, tu davvero credi che se non ci fosse il ministro dell'interno Chieng, perché questo è. Ministro dell'integrazione Chieng e il presidente della Camera Boldrini, che è stato all'ONU, all'accoglienza per i rifugiati tanti anni, davvero credi che se non ci fossero queste due persone in quei posti nevralgici, una come ministro e l'altra come presidente della Camera, non ci sarebbero meno sbarchi? Davvero lo credi? Sì, lo credo che ci sarebbero meno sbarchi, perché quando si mandano segnali di questo tipo si fa credere che in un paese quelle regole legate all'immigrazione ognuno se ne può fregare. Lo credo, altrimenti non l'avrei detto, chiaro. Cioè, quando tu parli di concorso morale, significa che stai dando a due persone... Concorso. Beh, quello che hai detto, dai, hanno contribuito... Allora, se uno continua ad invitare le persone, pregandosene di quelle che sono le norme, a sfidare il mare... arrivare in Italia, perché tanto poi qualcuno gli farà una sanatoria, gli darà la cittadinanza italiana in qualche modo. È chiaro che i disperati, perché stiamo parlando di disperati, su questo siamo tutti d'accordo, non fa altro che cercare di rischiare la vita. Ma l'hai detto anche tu prima, scusa. Sì. Ha detto, è chiaro che se poi... Però se non è che ogni giorno, la Chieng e la Boldrini fanno appelli per sbarcare sulle coste italiane. Un giorno sì, un giorno no, praticamente, guarda. Cioè fanno appelli per sbarcare sulle coste... Le dichiarazioni della Chieng, un giorno sì, un giorno no, queste continuano a dire che il Bengodi, non è il Bengodi. Parenzo, vai. No, voglio capire una cosa, mi calmo un secondo, affronto il ragionamento di Pini. Secondo lei, caro onorevole Pini, il faccione della Chieng, il faccione del ministro di colore, quanti immigrati in più porta in Italia, secondo lei? Non solo per avere un ministro negro, solo per questo. Parecchi in più, perché non è il faccione della Chieng o il coso, è l'atteggiamento politico e l'atteggiamento anche di come dire, voi venite pure in qua, è il messaggio pericolosissimo, ma prima di tutto pericoloso perché ricevete pure il ministro negro, no? che cercano in tutti i modi di arrivare in Italia, perché qualcuno gli ha raccontato che in un paese c'è un governo che prima o poi... Allora, tutte queste Pini, però andiamo regolari. Fino in fondo. Avere un ministro, io lo chiamo tranquillamente negro perché il marito mi ha dato l'autorizzazione, che si può, senza insulti, si può chiamare tranquillamente negro. Me l'ha detto l'altro giorno in trasmissione, non ho problemi. Nero è uguale. Il fatto di aver scelto un ministro negro / nero è uno stimolo all'immigrazione clandestina? Secondo me sì. È uno stimolo all'immigrazione clandestina in generale. Nel momento in cui l'immigrazione avviene secondo le regole, nessuno dice, abbiamo fatto noi la legge, saremo anche incoerenti nel dire. Il piranha? Ti spiego. Vabbè, il piranha non è che vuol dire... No, non è un insulto. Il piranha, beh, insomma, squalo, dai, il piranha. Squalo. No, non è un insulto. Ma come no? Dai, lo dici così, squalo, piranha. No. Adesso Pini è carrozzato e ti può rispondere tranquillamente, ama lo scontro. Però non avere paura delle tue idee. No, ma io lo conosco da 20 anni, mica ho detto che lo so. Da 20 anni tu esageri. Da 15 anni lo conosco, 10 anni almeno. Cala. Oddio, non ho detto che è uno stronzo, non ho detto Pini. Beh, è uno sì, stronzo. Stai dicendo che è uno stronzo. Non ho detto che Pini è uno stronzo. Non lo penso neanche. Penso che sia un piranha. Allora dico al piranha, dico il sottotesto del suo discorso, anzi non è neanche un sottotesto, è talmente esplicito, è a dire: figurati, in Italia, pensano gli immigrati, hanno addirittura un ministro negro, quindi c'è spazio per tutti, perché questo è quello che loro pensano. No, ma l'ha detto prima, avere un ministro di colore alimenta l'immigrazione. È un insieme di fattori. Questo è uno, chiaramente uno. Un attimo solo, Gianluca, che devo andare a pubblicità, poi torniamo a 800240024 per l'ultima raffica di domanda. La persona che è al centro delle polemiche di oggi per quello che ha detto su Boldrini, Chienghe, responsabili morali di quello che è accaduto a Lampedusa. Radio 24 è una radio che reputo molto seria. Il programma della serata è una cosa che spesso mi disgusta. Se n'è andato e non ritorna più. Il treno delle 7:30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima. Nel freddo del mattino grigio di città, a scuola il banco è vuoto, un Marco è dentro me. Fermatelo, vi prego amici, parenti, vi prego amici, parenti, conoscenti, non fatelo andare in giro la sera davanti alla Camera dei Deputati, davanti al Senato, dov'era, in preda al così all'eccitazione, in preda con la faccia spiritata, ad affrontare esodati, disperati, gente che chiede qualcosa davanti alle istituzioni, insultato, si deve difendere. Fermatelo, vi prego, fermatelo. Marco Pannella. A me, sta attento, che no, sto cazzo, tu cosa stai facendo? Io cosa sto facendo? Cosa stai facendo? Sono un esodato. Sei un esodato e cosa stai facendo? Perciò ti chiedo, continui a scioperando, sì. Stai votando per loro e per noi non hai mai votato, te lo dico io. Te lo dico io. Agli occhi di bambino un poco timido. Guardi, io le giuro che se nascono di nuovo le BR, io sarò il primo a mettermi dentro, contro lo Stato. E infatti sei uno stronzo. Sì, contro lo Stato, perché voi state solamente rubando le persone. Io non sono nemmeno deputato, no, non alzo nulla, ma dico, non offendere. Tu sei sicuramente un ladro come loro, tu sei sicuramente un ladro come loro. Fermatelo, bloccatelo, vi prego, non fatelo andare in giro. Vabbè, siamo qui 800240024 con l'uomo del giorno, Gianluca Pini, Lega Nord, sulla vicenda di Lampedusa. Parenzo, ti sei sfogato? Vai ancora? No, molto di più. Molto di più, parla alto, a voce alta, che fai? Molto di più. Vabbè, che vuol dire molto di più? Perché hai appena fatto sentire una cosa straordinaria, che un uomo che con la sua faccia e la sua storia può andare davanti alle istituzioni e mandare a fanculo i cittadini che gli dicono voi, quando invece voi e loro, perché lui è fuori dalle istituzioni. Ma che c'è, lui, 50 anni che sta là, dai, su, smettila. Le battaglie per la libertà le ha fatte, quindi non è che devono fare tutti la stessa roba. Ci sono invece degli scafisti della politica, questi Pini, cioè stai paragonando Pini a uno scafista? No, degli scafisti della politica, hai detto uno scafisti, usando una metafora radicale, dico che ci sono degli scafisti della politica che fanno un uso criminale degli sbarchi. Questo sì, lo dico, e come? Ma quello fa politica, Pini, non è che pettina le bambole, fa politica. Un uso criminale sui morti che ci sono stati. Fai parlare un attimo il professore. Allora, Renzi che dice, dopo che si sa che ci sono 300 morti e tutto il resto, Renzi che dice la prima cosa da fare a questo punto è cambiare la legge Boschini. Cos'è, un piranha o è un piranha stronzo? Perché adesso, ripeto, non è che l'uso come dici tu, strumentale, il mio non è stato un uso strumentale, il mio è stato un'analisi, una valutazione politica di un atteggiamento che tengono dei colleghi. Dunque che non ti penti, non ti penti, non ti penti di quella frase? Assolutamente no, assolutamente no. Cioè, ecco. Io ho fatto un'analisi. Hai dato alla Chieng e alla Boldrini dell'assassino in pratica. Su, dai. Io ho detto una cosa, è lì scritta e lo puoi leggere tranquillamente. Non mi pento di un'analisi che ho fatto, perché analisi, secondo me, è il dato di fatto. Cioè, se si continuano a mandare dei messaggi pericolosi e sbagliati al di fuori di questo paese, che si può arrivare qua tranquillamente, anche su una carretta del mare, sfidando la morte, perché poi qualcuno magari ti premia. Ma scusa, è chiaro che c'è una responsabilità in questo tipo di atteggiamento. C'è una responsabilità. Poi vogliamo dire che la responsabilità può essere anche più diffusa rispetto a tutta la classe ma politica. Quando tu dici responsabilità, però, quando dici responsabilità, significa che sostanzialmente dai la colpa in parte a queste persone delle morti. Cioè, secondo te sono un po', cioè, la Boldrini è un'assassina. Allora, ti torno a rifare la domanda, Giuseppe. Cosa cambia rispetto alla mia valutazione, dove io do la responsabilità per un atteggiamento, diciamo così, di invito nei confronti rispetto dei a quelli che danno la responsabilità rispetto a Bossi Fini? Quelli che danno la responsabilità a una legge. Cosa cacchio c'entra la legge Bossi Fini con della gente che sale su una carretta del mare sapendo di rischiare la vita e di arrivare qua? La Bossi Fini si applica in Italia, non si applica in mezzo a proposito mare. Di sapendo che rischiano la vita, secondo te quelle persone sono consapevoli che possono morire? Beh, io penso che la televisione sia un mezzo talmente potente che arrivi anche in quelle zone lì e le notizie, perché questo non è, purtroppo, questa è la tragedia più grande che abbiamo vissuto. Dunque, però non è l'unica, secondo me ne sono assolutamente consapevole. Cioè, in fin dei conti si assumono un rischio quando partono. Ma l'hai detto anche tu, secondo me ne sono consapevoli, poi che si assumano un rischio... Magari non tutti, perché chiaramente quando caricano purtroppo dei bambini o delle giovani, queste cose qui non difficilmente posso pensare che gli spieghino che possono rischiare. Però gli adulti sono consapevoli che possono crepare in fondo al mare? Penso di sì. Parenzo? Penso di sì. Da caro Pini, che questi qui sono talmente consapevoli che... Ma poi la parola è questa, sono disperati o no, Pini? Perché questo qua è un altro dubbio che mi viene. Sono veramente tutti disperati? Sì o no? No, secondo me non tutti. Cioè? Secondo me non tutti. Poi bisogna capire anche i periodi, sai. Adesso la cosa stranissima che bisognerebbe poi andare a verificare. In questo momento si partono dalle coste della Libia, ma è gente che arriva dalla Siria. Sì. Allora. No, Eritrea, anche dappertutto. Sì, insomma, un po' dappertutto, no? Allora, cioè, non tutti sono disperati. Beh, ci sono persone che vengono da zone di conflitti e di guerra e sicuramente possono essere disperati. Ci sono persone che però non vengono da zone di guerra e quando arrivano in Italia addirittura si rifiutano di essere identificati. Beh, se io vado in un paese e rifiuto di dare le mie generalità è perché probabilmente non ho delle gran buone intenzioni. Ma qualche volta vengono pure, cioè non sono proprio dei poveracci quando arrivano in Italia? Beh, insomma, le cronache lo dicono chiaramente, che è una popolazione immigrata ad altissimo tasso criminale, quindi cioè, non sono arrivati sicuramente dei jet in business class. Cioè arrivano qui, non è perché sono disperati, che vengono in Italia per rubare. Ho detto che ci sono quelli che non tutti. Di guerra, ma non tutti, ma questo è un dato di fatto. Ma qualcuno disse una volta alcuni arrivano con le scarpe griffate, con i vestiti griffati, con le scarpe, cioè non sono tutti dei disperati poveracci senza un euro, questo voglio dire, sì o no, secondo te? No, secondo me no. Secondo me sicuramente molti sono spinti dalla disperazione. Nel mezzo qualche delinquentello l'abbiamo sempre beccato. Senti, ma le cattive maniere... Ma delinquenti, ma scusami, ma non far passare questa roba, ma di delinquenti... Non sto facendo passare nulla. Anche Belsito è un delinquente. Anche Belsito è un delinquente ed è immigrato dal sud al nord. Beh, ma che c'entra, scusa? Che cazzo c'entra, però? Si vuol parlare di delinquenti. Parla di cose serie, per favore. Dai, che c'entra che Belsito è un delinquente? Dai, stiamo parlando... Scusami, adesso il Piranha sei tu, perché stiamo parlando di morti, stiamo parlando di disperati. Detto che come al solito il mezzo per sì, dai, sì, serio, come si almeno una volta tanto. Ma come si fa a dire che arrivano qui e tra questi ci sono... Ma perché lì... Scusami, sai perché? Come si fa a dire? Perché lo vedi dalle statistiche, lo vedi dai rapporti della polizia, lo vedi da quello che dice il Ministero dell'Interno, che non ha uno noi, uno spesso e volentieri, spesso e volentieri danno... Parenzo, fammi parlare, così magari fare qualcosa. Spesso e volentieri identificano delle persone che arrivano sugli scafi, gli danno un documento e dopo 15 giorni li trovano in casa di qualcuno a rubare. Quelli cosa sono? Maggiordomi? che volevano provare il periodo di lavoro. Dai, su. Non scherziamo, per favore. Ma le cattive maniere, secondo te, cioè bisogna far capire anche con le cattive maniere che non si può arrivare, cioè, per esempio, che ne so, sparare i barconi, cose di questo tipo, no, se uno affondasse una volta un barcone, cazzate, per favore. Che ne so. In Spagna sparavano, in Spagna sparavano qualche volta, Sparavano anche a Malta, però a Malta penso che comunque di tutto stiamo parlando di persone, quindi ci deve essere un livello di dignità e di umanità che... Ma uno può dire se muoiono lo stesso, cioè adesso siamo sinceri. Quando non morivano? Quando Maroni aveva messo le nostre navi davanti alle coste e pattugliavano le coste, fra l'altro questa cosa qui l'ha richiesta oggi Napolitano. Ma quella è stata un'idea di Maroni. In quel caso lì. Vabbè, adesso non è che Maroni Bengodi, dai, su, adesso Gianluca. Dai. Allora, con Maroni non c'era il Bengodi, non lo so. Con Maroni ti dico però dati alla mano che da un anno all'altro gli sbarchi erano erano momenti storici. Cosa cazzo c'è? Quali momenti storici? Anzi, c'erano i prodromi delle rivoluzioni lì che ci sono avvenute. Allora, addirittura c'era forse un attimo più di agitazione rispetto a quella che c'è adesso. Adesso, passate le primavere arabe, ci sono dei governi più o meno stabili con i quali quel tipo di accordi si possono tranquillamente fare. Ma io non penso che il governo italiano non voglia fare gli accordi, dai, su. Però, Gianluca, dimmi una cosa. Gli strumenti ci sono tutti, gli esempi da seguire, i metodi, tutto, le persone preparate, le persone formate, anche in loco ci sono perché le abbiamo formate. Qualcuno ci deve dire perché è arrivato Monti, quel tipo di accordi sono saltati per aria. Ma il lutto, il lutto nazionale è sbagliato oppure è giusto? Dimmi la verità, quello che pensi. No, secondo me. Dai, dimmi quello che pensi. Secondo me è un'esagerazione. Cioè, non ci deve essere la giornata domani di lutto nazionale. Il lutto nazionale, quando io vedrò il lutto nazionale per tutte quelle persone, imprenditori, cittadini italiani che si sono impiccati perché lo Stato non riusciva magari a pagarli o roba del genere, allora possiamo fare un lutto nazionale complessivo per tutte quelle che sono le vittime dello Stato, perché ti torno a ripetere. Sì, ho capito. Fai finire. C'è più colpa nel sapere di poter fare qualcosa per evitare una tragedia come quella di oggi, cioè riattivare quel tipo di pattugliare, piuttosto c'è più colpa lì piuttosto che quella della nostra valutazione assolutamente ripeto serena sul fatto che allora Parenzo che vuoi dire su questo Piragna, anche su questo, sul fatto della altro che Piragna, ma ormai siamo veramente al vomitorium qualunquista, cioè ma come si permette, cosa c'entrano gli imprenditori che si impiccano perché magari lo Stato non ha pagato, perché i morti sono tutti uguali, il paragone è stupido, allora, è per quello che è stupido, dice Pini, si dovrebbe fare una giornata di lutto nazionale ogni santissimo giorno, questo dice, dovete, no? Questo dice. Dovete semplicemente vergognare per tirar su due voti in più, state mangiando i cadaveri di chi è in condanna. Ma la politica deve parlare di queste cose, Parenzo, di che cosa deve parlare la politica? Può parlare o no di fronte a una tragedia del genere, cercando di... Vergogna, per due voti in più state mangiando i cadaveri di chi è in fondo al mare. Non capisci un cazzo come al solito, non c'è niente da fare. Io capisco che sia il tuo ruolo quello di fare sempre della polemica, però... Ma quale mio ruolo? Ma quale ragionamento? Beh, la polemica è sotto vomitevole, va bene. La polemica, la polemica all'inizio l'hai fatta tu, Gianluca, oggi non l'hai creata tu. Comunque, grazie Gianluca Pini, grazie, a presto. Ciao, ciao. Amici miei carissimi, che siete in ascolto, la pubblicità. Eccoci qui, 800 24 00 24, è iniziata la ridicola processione di ministri, sottosegretari, politici, presidenti, eccetera eccetera. Addirittura il presidente Boldrini andrà domani pomeriggio a Lampedusa a rendere omaggio, a parlare, a fare dichiarazioni, eccetera eccetera. La Pravda c'è in omaggio al telefilm di Rin Tin Tin. Elena, provincia di Modena, buonasera Elena. Buonasera a voi, mi sentite? Sì, dica. Allora, io mi querelerò, ma devo dire a Parenzo che è un idiota. Ma non la querelerà, signora, non c'è problema, prende anche di peggio, prende addosso di peggio. Me ne faccio glielo dico con grande gusto, guardi. Perché con grande gusto? Perché? Perché non trovo nessuna differenza tra lo sciacallaggio che fanno la Boldrini, la Chieng, Grasso, anche onesto, tutti a dire bisogna cambiare, bisogna accogliere, eccetera, e lo sciacallaggio della Lega che dice che qua chi li chiama, questi qui li chiama a morire. Non ci trovo nessuna differenza, me la devi spiegare lui la differenza che c'è. Innanzitutto si metta il viva voce, si tolga il viva voce o qualsiasi diavoleria perché si sente male. Poi Parenzo? Quello che dico io è che questa è questa che stiamo mettendo in scena questa sera con queste telefonate, è un'Italia, è l'Italia profonda, è il fondo del pozzo. Queste telefonate sono il fondo del pozzo. Il fondo del pozzo. Il fondo della melma. Cioè le sta dando della merda, signora Elena, provincia di Modena, le sta dando della merda, melma, merda, uguale, melma. Guardi, quando me lo dice lui mi scivola addosso completamente, non mi dà nessun fastidio. Cos'è che le scivola addosso? C'è una disumanità che... Le sue parole proprio non mi toccano, anzi, è quasi un onore per me sentirmi dare della merda da lui, guardi. Addirittura? C'è un'Italia certi discorsi fatti da lui non hanno senso. Vorrei che mi spiegasse, buon Parenzo, perché questa gente, disperato o non che sia, invece di attraversare lo stretto di Gibilterra, attraversa verso Lampedusa. Perché? È 10.000 volte più lontano, 10.000 volte più rischioso. Perché prendono la strada lunga? Ma lei sa quanto, lei sa perché sbarcano a Lampedusa e non magari in Sardegna? Ma lo sa geograficamente, sa perché o no? Sa dove è Lampedusa geograficamente? Lei sa dove è Gibilterra? Lo sa quanto è più vicina all'Africa? Perché non passano di lì? Ma lei ha fatto la scuola dell'obbligo o no? Ma la scuola dell'obbligo è stata... È stata fatta a scuola dell'obbligo? Perché c'è una differenza tra le politiche degli spagnoli e le politiche italiane, questo è un dato di fatto. Lo sa che i clienti di identificazione dove li prendono in Spagna, no? La Croce Rossa non può neanche entrare? Quando ci si e poi dice che dobbiamo accogliere di più e fare di più, ma santo Dio, perché non passano dalla Grecia? Dalla Turchia, più vicina? Perché passano? Sì, magari con un Freccia Rossa a alta velocità. Scusi, signora mia, ma non la butti pure in cacciara, guarda, non capisce niente. Le scuole elementari sono state fatte, no? Almeno quelle le ha fatte, no? Quindi il disegno dell'Italia ce l'ha presente, basta? No? Due lauree? Ce l'ha, e due lauree, però dice delle cose idiote, anche se ha due lauree. Sono guarda che idiote, c'è un sacco di gente, c'è un sacco di gente, Davide, c'è un sacco di gente, c'è un sacco di gente che ovviamente è dispiaciuta, è affranta di vedere tutti quei morti lì, ma vuole durezza su queste cose qui, non buonismo, non accoglienza, durezza. Scusami, ci avete insegnato poco fa che esiste una legge Bossi-Fini, perché esiste. Basta, discussioni sulle leggi. Per rilassarci un attimo, leggo una dichiarazione di Galan. Agli alfaniani lasciamo... Aspetta un attimo, dai! Agli alfaniani lasciamo il PDL, che Angelino aveva portato al 9%. Ora fuori dalle palle. Stupendo, mitico Galan. Per la sede facciamo contento Sacconi e gli diamo una sagrestia. Non me molesti moschito, non me molesti moschito. Si perde Parenzo che non arriva nemmeno al tavolo, quindi non è una persona normale. Parenzo nemmeno al tavolo, se lo metti in piedi non arriva al tavolo, quindi non lo prendiamo in considerazione, via. Segreteria telefonica. Oh cazzo, ho sbagliato dove, è quella lagna di quel cazzone di Cruciani, cazzo, che lagna. Senti Crucia, siccome Parenzo è un coniglietto molto timido, io invece sono un coniglietto molto più coraggioso. Se può intercedere con la Sant'Anche, mi voglio fare ingoiare sano sano da lei. Guarda, proprio desidererei molto farmi ingoiare sano sano. Ciao. Cruciani e Parenzo, sono contentissimo per l'ascoltatore che con la zanzara, sentendo la zanzara, rimorchia. Io invece ieri sera, alla stessa ora in cui sto chiamando, in mezzo al traffico, praticamente allo stesso incrocio dove mi trovo adesso, stavo sbellicandomi come faccio tutte le sere quando vi sento, e sono andato a sbattere, ma sono contento lo stesso. Ciao, un abbraccio. I quattro froci, cioè non è possibile, veramente, te fermi a Ronco Bilascio, all'area di servizio Crocetta, al parcheggio Crocetta, all'area di servizio di Veremonte Purcia, ti fanno il carosello. Fanno il carosello, danno fastidio, finché poi alla fine beccano, come beccano a me che mi rode il bucio del culo, io poi li scrocchio. Poi dici, ma hai menato un omosessuale? No, si tratta. Fanno proprio schifo. Ehi, merdosi, io oggi mi sono iscritto ai circoli di Rotondi. Cambiamo l'Italia, maledetti bastardi. Io dico, ero solo che Enrico Letta, quando che Berlusconi gli ha dato la fiducia, doveva benissimo dirle un grazie a voce alta. E dopo il mio sogno sarebbe di fare un frullato con Travaglio, Epifani e Zanda e Barba Bianca, che non so se è, che Scalfari, Scalfaro, non mi ricordo. Perché sto Epifani e sto Zanda qua, quei due morti di fame, quei due... Va bene? Da dove vengono fuori? Centinaia di morti. Dov'è la Chiang? La tua amica Chiang dov'è? Sarà in qualche beauty farm a farsi massaggi per buttare giù la panza? Panza fa rima con Parenzo, tra l'altro. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, 0246 02, ripeto, 46 52 40 10. Vittorio Don Bozzano, ancora una volta tocca segnalare che a questa segreteria telefonica uno non sì, ma pensa parla a voce alta, uno, se no non si sente. Uno non pensa di ascoltare il parere di André Glucksmann a questa segreteria telefonica, né tantomeno di Bernard Henri Lévy. No, ma questo è scontato. Nessuno si aspetta questo, di sentire Gore Vidal, Noam Chomsky, nessuno si aspetta giusto? No, nessuno. Però. Tra Bernard Henri Lévy e questa fogna che ogni volta viene riproposta ci sarà una via di mezzo, no? La fogna fa parte della vita, amici miei. Vittorio da Bolzano. E perché non chiamano da Barisoni? Giuseppe, ci sono! Sì, senti? vai! Ascoltami, ma il ministro Chiang e la Boldrini erano le loro colpe. Ma del Papa, che è andato lì a fargli pure la messa e a braccia aperte ha detto venite, che siete tutti figli di Dio, ne parliamo? Cioè, secondo lei è pure colpa del Papa? Ma io direi che questo uomo marketing, sinceramente, ha fatto anche lui qualche danno, Cioè, pure il Papa è colpevole dell'immigrazione clandestina dei barconi. Ma è un immigrato anche lui, no? Lasciami parlare che parli tutta la sera a Vambra. Ascoltami un attimo, Giuseppe, ma se una persona, no? Non siccome siamo messi qua e non siamo messi bene per niente, e ancora il Papa io lo rispetto, ma tanto perché è forse un Papa che non abbiamo mai avuto, ma questo è andato pure a fargli la messa. E allora? A braccia aperte, venite! Venite, ma non ha detto venite. Di Dio. No. Lui gli ha fatto la messa e gli ha detto proprio così, a braccia aperte, venite. Dunque è pure colpa sua. Io direi proprio che una fetta è anche colpa sua, di questo uomo marketing che non avremmo assolutamente bisogno. L'uomo marketing, il Papa come uomo marketing, Vittorio Bozzano. Questo idiota che sta parlando gli avrebbe chiesto il permesso di soggiorno al Papa, fosse stato lì a... Ma l'Argentina che c'entra, dai? Gli avrebbe chiesto, dice, scusi, sono, come si chiama questo qui? Come si chiama questo signore? Vittorio. Sono Vittorio. Chi è quell'uomo bianco lì? Sono il Papa. È l'uomo bianco, dove vieni te vestito così? Ma dice, veramente sono il Papa. Ma è di Bolzano, però. È di Bolzano. Allora, dove è messo il soggiorno? Dice, guardi, sono il Papa, però io scusi, arrivano quelli del Vaticano, che dicono, guardi, che questione lì è il Papa. Il Papa, ma da dove viene? Dice, dall'Argentina. Allora permesso di soggiorno ce la minga, torna via al tuo paese, torna al tuo paese. Vittorio? Dai 5 centesimi al bulgaro come hai fatto prima e far bella figura con la tua coscienza, ma tu dove vivi? Pancrazio, Allora, c'è una signorina che mi scrive, una signorina che si chiama Barbara Collevecchio che mi scrive, c'è chi è costretto a salire in un barcone e chi a vendere l'intelletto, ad ognuno la sua morte, la tua cinica alla loro clinica, la mia morte cinica alla loro clinica. Ma poi vi leggerò alcune cose su di me, molto gentili, molto carine, ma io l'adoro. Dove andiamo? È con noi Daniele Martinelli, ex capo del gruppo della comunicazione del Movimento 5 Stelle, faceva parte del gruppo della comunicazione. Ciao Daniele, buonasera. Ciao a voi, buona serata. Come stai? Benissimo, grazie, spero anche voi. Non c'è male, è nuova vita, è tutta vita. Sì, siamo a spasso. Un incubo. Ogni giorno lì alla camera, Eh sì, la media era 10-12 ore al giorno in quegli uffici. Senti, dimmi subito una cosa, Daniele, ma nella vicenda ultima che ha riguardato una deputata del 5 Stelle, la De Pin, come si chiama, al Senato, perché uno si deve mettere a piangere perché viene insultato da... insultato, viene affrontato, ma succede nella politica, dai, su, succede. Ma guarda, io la De Pin personalmente non la conosco, perché è una senatrice, io ero alla Camera, per cui al Senato ho conosciuto pochi senatori, a parte due o tre, però penso che faccia parte un po' della sensibilità della persona, cioè alla fine ci sono politici, cioè siamo troppo abituati ai politici falsi che recitano, e lì invece abbiamo cittadini veraci che se vengono toccati in un certo modo piangono. Cioè ha sbagliato cosa, come si chiama? Il senatore Castaldi, là, come diavolo si chiama? Guarda, lì ci sono versioni contrastanti, i giornali scrivono che lui si sia scusato perché l'ha un po' aggredita verbalmente, però poi si è detto di tutto, ma voglio dire, in quel Parlamento lì abbiamo visto gente che si sputava in faccia, vi ricordate gli uomini di Mastella? Non ho sabotato Prodi mentre De Gregorio si fregava le mani, vi ricordate, no? Sì, ecco, in quel Parlamento lì abbiamo visto di tutto, per cui qui abbiamo dei cittadini veraci, dei ragazzi giovani, e senatori un pochino meno, però insomma che sono lì, secondo me che danno davvero l'anima per cercare di portare a termine i loro punti. Quindi, sì, però uno non è che questa qua era già uscita dal gruppo dei 5 Stelle, ha votato la fiducia a Letta, secondo me è uno scandalo, perché una che è eletta nel Movimento 5 Stelle non può votare la fiducia a Letta, cioè questo è uno scandalo pazzesco. Ma, purtroppo guarda, c'è l'articolo del 67, credo che... Cioè tu lo elimineresti questo articolo? Dice che non c'è vincolo di mandato, io personalmente sono per il rispetto delle regole, per cui se fossi stato io lì non avrei detto niente, cioè non l'avrei insultata, io poi non le avrei vieni detto, fuori, così, vieni fuori, no. Vieni fuori, gli avrebbe detto, lei avrebbe detto, forse. Ma guarda, io dubito fortemente che ci siano stati appelli di questo tipo, anche perché ti posso garantire che i ragazzi che ho conosciuto avranno mille difetti, ma la violenza proprio io lì non l'ho mai vista, cioè veramente non posso pensare che un senatore 5 Stelle faccia una minaccia di questo tipo a una senatrice, ma manco fosse la Santanchè, cioè voglio dire non ci sta violenza, capisci? Vabbè, la Santanchè non ha mai detto a nessuno ci vediamo fuori, scusa Daniele. Però, dai. No, vabbè, adesso mi viene in mente perché so che l'altro giorno ha detto offro la mia testa ad Alfano, mi chiedevo quale testa offrirà mai la Santanchè ad Alfano. Perché? Però... Perché? Perché insomma... perché non ha testa, dici te, questa è la verità. È spontanea la domanda, no? Cioè, sentiamo di quelle cose in quel Parlamento, davvero, che io mi auguro davvero che invece, nonostante tutta la disinformazione, tutta la... i messaggi travisati che arrivano alla grande massa di italiani, di questi sì, ragazzi, però siete diventati irrilevanti. Io credo che gli italiani pensino con la loro testa e si rendono conto. Però scusami, l'unica possibilità sono loro. Però scusami, Daniele, adesso al di là del fatto che tu sia uscito per dei dissidi interni, non ce ne frega niente poi alla fine dei dissidi che hai avuto con altri della comunicazione dei 5 Stelle. Però c'è un dato: un partito che prende il 25% come quello di Grillo o giù di lì. Poi politicamente non usa questo 25%, cioè siete irrilevanti, e questo è il problema, irrilevanti. Ed è... Ma guarda, il problema è questo, che se tu ti ricordi Beppe Grillo, fin dai tempi del PD di Veltroni, chiamava l'inciuccio Veltrusconi, per cui chi segue Grillo già 6 anni fa, l'inciuccio si è sempre saputo, cioè voglio dire, secondo me la forza del Movimento 5 Stelle è che è la prima volta in questo paese in cui si è riusciti a far unire quei due partiti che apparentemente erano sempre stati contro, PD e PDL, che sono di fatto uguali, per cui si stanno uccidendo loro, a mio avviso. Sì, però uno che prende quei voti là poi li deve utilizzare politicamente. Comunque il senatore avrebbe detto tu non torni a casa, alla senatrice De Pino. Ragazzi, siamo mica qui a sfarmare l'autana alle zanzare. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco. Mañana yo soy stanco. Cornute che non sono altro. Questi sono dei cornuti. Baila col ritmo bueno, non le importa mucho. Eccoci qui, caro Parenzo, siamo con Daniele Martinelli, ex gruppo comunicazione alla Camera del Movimento 5 Stelle. E cosa fa adesso? Beh, non lo so, sarà disoccupato, che ne so, viene qui alla Zanzara. Sono disoccupato, sì. Quanti soldi prendeva lei lì da... Prendevo 2.500 euro al mese. Ma perché Messora ne piglia 6 allora? No, Messora ha pubblicato la busta paga con i soldi lordi che comprendono anche le spese, presumo anche alcune spese che sostiene per stare a Roma. Insomma. E in tutto facevano, se non sbaglio... Io devo dire la verità, non l'ho neanche vista, però ho sentito che era 6.000 euro. Appunto, e come mai? Evidentemente, perché poi considera che fa peso anche il carico familiare, no? Cioè c'è il minimo tabellare, poi c'è anche, sai, se c'è il carico dei figli, la moglie, questo va a sommare un pochino lo stipendio, quindi magari può darsi che da 2,5 vai a 2,6, 2,7, insomma, so. Scusa, però Daniele, non è un po' assurdo che il capo della comunicazione al Senato in quel caso prenda più dei senatori stessi? Assurdo, teoricamente sì, perché noi l'accordo era quello di prendere lo stesso stipendio dei deputati. 2005, sì. Però penso che se siamo nell'ordine di 200-300 euro non credo che sia nulla di drammatico. Ma no, lì si arrivava a 6.000 da quello che si sa. Sì, ma 6.000, torno a ripetere, presumo che comprendano anche, siano lordi o comprendano anche le spese che sostiene per stare a Roma, cioè presumo l'affitto e piuttosto che le spese andare vabbè, ma non siamo tutti uguali, treno, in aereo, quello che è. Scusate, ma dimmi la verità, in questi mesi eccetera, la cosa che viene fuori è che alla fine comanda Grillo, diciamo la verità. Bella scoperta. Comanda Grillo, diciamo che Grillo è l'ispiratore di questo movimento, i ragazzi che oggi sono nel movimento si sono ispirati a lui, chiaramente hanno condiviso con lui come del resto cioè, io. Cioè quelli che se ne sono andati alla fine... ci sta secondo te oppure avevano capito male? Ma su 163 io penso che sia fisiologico, tu considera che prima non c'era neanche un deputato in Parlamento del 5 Stelle, improvvisamente ne arrivano 163, no? Sono 163 incensurati, cittadini che gran parte dei quali Grillo stesso non conosce. È chiaro che se poi c'è il Mastrangeli di turno che non condivide col gruppo la condotta e viene cacciato, voglio dire alla fine... Cioè non, mi sembra che Mastrangeli alla fine non, cioè è tutto normale. Il movimento, cioè secondo me il movimento è un filtro, no, che dà determinate garanzie. Poi se Mastrangeli nel misto continua a prendere i soldi di 2.500 euro, continua a fare il cittadino e continua a fare il suo dovere, io non ci vedo nulla di male se è nel misto, capisci? Cioè l'importante è non portare gli imputati, cioè i Verdini, i Dell'Utri, sta gente qua non se ne può più, no? Dobbiamo cambiare le facce. Tu addirittura hai definito Berlusconi un fondo di galera, o sbaglio, no? Com'è che l'hai definito? Fondo di galera? Beh, cos'è secondo te? Che ne so, come l'hai definito tu? Fondo di galera? Eh beh, guarda un po', abbiamo un pregiudicato condannato in Cassazione che sta lì al Senato. Cioè, ti ricordi quando Prodi, io mi ricordo ancora quando c'era Prodi, si metteva lì in mezzo alla Camera e diceva devi dimetterti a Prodi. Cioè, ma ci rendiamo conto. Scalfari... Abbiamo perso il senso forse della ragione, abbiamo perso anche il senso della logica delle questioni. Scalfari, l'hai definito... Abbiamo un evasore fiscale conclamato che sta in Senato e che non se ne va. E siamo il paese, siamo i buffoni dell'Europa, okay, in questo paese. E per cui voglio dire, se agli italiani sta bene così, va bene. Una volta hai definito Scalfari pezzo di M, perché? Io? Sì, così. No, non l'ho mai detto. No. Quando ho detto così. Che ne so, avrei scritto da qualche parte, no? Mi risulta no, questo. No, io non ho mai scritto pezzo di merda Scalfari, non mi sarei mai permesso. Semmai l'ho criticato, però non do mai questi insulti. Cioè non ho bisogno di dire a uno che è un pezzo di merda, glielo dico in maniera più diplomatica, se devo dire, ma non glielo dico così diretto, capisci? Però sì, che Scalfari, vabbè, condivido quello che sia. Scalfari ha scritto un sacco di scemenze su Grillo e sul movimento e continua a scriverne. Quando scrive è meglio che non scriva di Grillo. Che errore Scalfari ha fatto Grillo, secondo te? Un errore, poi ti lascio. Un errore che ha commesso Grillo in questi mesi, dai. Un errore probabilmente è quello magari di aver vietato la televisione a tutti. Cioè più che chiedo scusa, ha fortemente sconsigliato. Vietato. Volevo dire fortemente sconsigliato, però è come se fosse vietato, perché comunque io ho provato anche a frequentare alcuni meetup per un breve periodo, anche a Bergamo, dove sto io, e ho visto che quando i pochi incontri che mi avevano visto dalla D'Urso mi attaccavano, come mi vedevano come un appestato, no? Per cui mi dicevano: cosa fai tu in TV? Non esisti, tu vuoi apparire, tu qui, tu là. In realtà la politica è anche comunicata. Da quando Grillo ha chiaramente permesso, e come dire, più che permesso, che faremo con vietato, direi, ha detto sì, ha consigliato, andate un po' in TV, però in determinati programmi. A quel punto lì vorrei sentire questi militanti oggi cosa dicono, no? Se hanno ancora qualcosa in contrario. Beh, questo è l'unico errore. Un altro errore? Ma l'errore che errore fa fatto Grillo? Ma poteva Il grande errore è buttarsi forse in politica, poteva fregarsene di tutti e farsi vabbè, quello, vita. Quello in realtà è... si è sbattuto. Non lo metti, guarda, no? Dai, l'errore poteva fare a un certo punto, poteva dare la mano, porgere la mano al Partito Democratico, dai, o no? Beh, ma perché? Ma come si fa a porgere la mano al PDL? Al PD, no al PDL. Al PDL è la stessa cosa. È uguale per come te, identico. Come si fa? Come si fa? Cioè noi abbiamo un premier che si permette di usare un canale pubblico per dire delle falsità totali sul Porcellum. Questo è vero. Questo tu è pensa vero. Che il Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione per abolire il Porcellum lo so. E questo ominicchio va in Rai 3 a dire che Grillo, cioè dice il contrario. Sì. Allora io dico, se noi abbiamo un premier in questa portata, io dico, potremmo avere Vanna Marghi alla consulta a sto punto. Addirittura. Ma come si fa? Ma noi siamo al ridicolo totale. No, su questo però devo dire la verità. Su questo ha ragione Martinelli. Perché, cazzo, non si può andare in televisione a dire Grillo non vuole modificare il Porcellum. Ma no, è vero che adesso dice che si può andare alle elezioni anche col Porcellum. Questa comunque è una contraddizione. Appunto. Però appunto. All'inizio della legislatura, quando Letta è stato eletto premier, per motivi di, come dire, di compromesso, per motivi insomma di tattici, Giachetti ha presentato una proposta e PD e PDL hanno votato contro questa proposta. Questi sono fatti, la realtà esatto. È questa. Scusa. Fatto sta che Martinelli può riconoscere che hai detto le cose giuste. Ma è così, dai, io posso anche criticare molte volte, atteggiamenti, frasi di Grillo, questa roba qui della legge del 3 non mi interessa minimamente, mi viene il sonno e il vomito, non mi interessa. La cosa su cui ha ragione Martinelli invece è esattamente quella che il Movimento 5 Stelle per forza ma come faceva ad allearsi col PD? Ne finiva completamente l'essenza, veniva liquefatto da quelli che loro chiamano il sistema, che dovevano aprire come una scatoletta di tonno. Cioè è evidente che quell'uomo lì, quel comico e Mister Capelli e Mister Capelli e Ricci, Branduardi, Casaleggio, ma è evidente che non potevano dare ordine a loro due di allearsi col PD, è ovvio, ne finiva, morivano subito, sarebbe invece così hanno una speranza di resistere un'anticchia ancora un po', fino a quando la gente non sarà stufata di questi, ma di resistere ancora, vuol dire no, noi siamo diversi, hanno la possibilità ancora di dire siamo diversi, poi non fanno un cazzo, sono quelli irrilevanti su qualunque cosa, perché io adesso non so una sola cosa che hanno fatto questi. Quando non sei al governo è dura. Daniele, torna a trovarci. Ciao, a presto. Ciao. Non mi mordere il dito. Rosaria da Napoli. Pronto? Vada, dica. Allora, io auguro possibile che il presidente napolitano, che io non riconosco come presidente della nostra Repubblica, ce ne faremo una ragione che lei non sente. Non sento niente. Giovanni da Verona, poi mi richiamiamola. Giovanni da Verona. Buonasera. Dica. Io volevo ritornare sull'immigrazione, quella che avete nel vostro, soprattutto nel suo discorso anche della disgrazia purtroppo odierna. Allora? A me sembra una cosa, una disgrazia quella che è successa a Lampedusa. Cioè a me sembra che purtroppo in Italia si vada troppo sull'emotività. Cioè per esempio oggi l'immigrazione è sicuramente una risorsa, però va gestita in una certa maniera. Per esempio quando le persone di colore, qualsiasi altra persona extracomunitaria, si mettono tranquillamente a fare anche dei corsi universitari, secondo il mio punto di vista dovrebbero anche poi in qualche maniera far fruttare le loro capacità, la loro cultura anche nei paesi di provenienza. Ma quelli una volta che studiano fanno il cazzo che vogliono, scusi Giovanni, non è che uno può imporre alle persone che studiano in Italia poi di tornare nei paesi? Non è che impongo, però secondo me così noi abbiamo sempre una situazione in cui abbiamo una disparità che diventa sempre più difficile a sanare. Va bene, Marco da Brescia, buonasera. Buonasera. Dica. Intanto voglio fare i complimenti a lei e a Parenzo. Non me ne frega niente dei complimenti, siamo due? Siete due bastardi dentro e vi prego di continuare così perché rompete i coglioni al sistema alla grande. Beh, al sistema non esageriamo. Poi? Però volevo cominciare a dirle con il massimo rispetto per le istituzioni. Non sento niente, Silvia da Pisa, Silvia. Sì, buonasera. Sì. Io volevo intervenire sul discorso della disgrazia che è successa in mare, no? Sì. E soprattutto sull'intervento di questo onorevole Pini, mi sembra, sì, si chiami? Sì, Pini. Della Chienge, che è di colore, che attira, eccetera. Ora, al di là del fatto che secondo me l'Italia è geograficamente posizionata in maniera tale che è di per sé un corridoio, per cui non è detto che chi viene in Italia. Allora, negli Stati Uniti i ministri di colore ci sono sempre stati, eppure questi problemi non ci sono. Voglio dire, se sono due situazioni molto diverse, signora, sono due paesi sono molto diversi, con delle storie. Loro hanno un problema, hanno una politica di protezionismo e una legislazione di gestione di queste problematiche. Sì, qui, sì, è lunghissimo. Che lunghissimo. Noi non abbiamo, va però bene. Dico, noi siamo nell'Europa, il problema è europeo, non è italiano. Quindi direi che forse il governo in questo momento, i nostri politici, invece di starsi a litigare tra loro, dovrebbero coalizzarsi e comunque fare una richiesta ben precisa e concreta all'Europa di prendere delle decisioni. Grazie. Zanzara! I politici alle prese con l'inglese. Razzi! Ruggisce tutta la notte e dorme in un tombino. C'è l'aria. What's your name? Non capisco l'inglese. Dai, what's your name? Your name. What's your name? Ti farò quello che vuoi. Vecchio, scelta civica. Good morning. Are you an MP? Are you a member of parliament? L'onorevole Hold. Ma che lingua parli? Are you a member of parliament, sir? Montroni, Partito Democratico. Program, the Highness, can we ask you a few questions? Parlamentare. Can we ask you a couple of questions? PD. PD. No, era quello. Non ha chiesto di che partito. Just state your name and party. No. Parlo italiano. David, ci sentiamo domani 18:30. Ciao. Ciao caro. Ciao. Non capisci un cazzo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Cucù, scusate se vi ho disturbati. Radio 24, la passione si sente.